Buongiorno, siamo Sara e Stefania. siamo qui a Lupiti di Arco per presentare oggi un nuovo percorso formativo multidisciplinare basato sull'educazione all'ascolto. Il titolo di questo progetto, che durerà fino a dicembre, è Garda Sounds, voci, storie, suoni dalle sponde del lago. E se noi utilizziamo l'idea del lago come un bacino che accoglie le tanti, tanti rivoli dei torrenti e dei fiumi, siamo proprio nel momento, ora, di conoscenza di questi rivoli che stanno entrando. Buongiorno, benvenuti. Sono 34 giovani allievi delle classi prime dell'UPT di Arco.